l'obiettivo è mandare in merda la vostra televisione, come cercate di fare con gli altri. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivo! Certo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. David, come dice il sindaco di Napoli, De Magistris, Napoli è la capitale della legalità. La capitale della legalità, amico mio. Senti cosa dice, senti cosa dice quest'uomo, senti cosa dice questo ragazzo, senti. Siete tutti senza casco? Senza casco, neanche sotto un po' la assicurazione. Ah, non hai neanche dell'assicurazione? No, vedi come. Perché? No, voglio. Solo per capire perché. Di soldi non voglio. Però non è pericoloso, perché se metti sotto uno come fai? È normale, per me è normale. Non male camminare senza casco. Non è solo da me. Però andare in tre senza casco. No, quattro. È tutto normale. Quattro vogliono fare solo un buchino. Mi la ricordo. Perché? Boh, ostato, a me mi fanno un buchino. Ostato mi fanno un buchino. Ecco. Come dice il sindaco De Magistris, Napoli è la capitale della legalità. Caro amico mio, ci sono una quarantina di senatori del Partito Democratico pronti a votare contro la riforma dell'articolo 18 sul lavoro, insomma. Incredible, come dicono gli inglesi. La possibilità di licenziare più facilmente, insomma, no? Ma senti cosa propone uno di questi, che si chiama Dattore. Dattore, certo, uno. Sì, Dattore. Sì. Senti cosa dice. Bisogna, no, bisogna consultare gli iscritti. Cioè, secondo me bisogna consultare gli iscritti. Cioè, tu capito, no? Dopo tutto quello che si è... se ne è parlato per anni, per sé, adesso bisogna consultare gli iscritti. Ma in che modo puoi consultare gli iscritti? Fare un referendum? Che cosa? Ci sono i gruppi parlamentari, c'è un segretario, c'è un presidente del consiglio del tuo partito che sceglie a maggioranza, come è normale che sia. Consultare gli iscritti. Penso che se alla fine dovesse rimanere una divaricazione profonda, sia giusto affidare la parola al nostro popolo, ai nostri iscritti, e chiedere un pronunciamento su una questione strategica per il PD. Mamma mia. Beh, sai, non la trovo una totale follia. Poi io sono a favore della riforma, premetto subito questo, cioè sono a favore del superamento dell'articolo 18. Però non è una follia, se c'è un partito su alcune questioni. Sì, però vorrei dirti una cosa, a me lo Stato. Dopodiché io sono a favore. A me lo Stato mi fanno un buchino, come dice quello. Questa vorrei metterla come sigla. Sì, come sigla, sì. Lo Stato. Sì, andare col casco, l'assicurazione. È un epitaffio questo. Il casco, l'assicurazione. A me lo Stato mi fanno un buchino. Vabbè. Sì. Una cosa incredibile, dai. Sì. Ma perché non l'hanno preso direttamente quello là? Preso. Cioè, tu con la telecamera, poi chiami, scusi, carabinieri, potete venire, pin preso. Cosa ha detto, scusi? È polizia? Pazzesca, sì, dai. Sì, certo. Oh, è tornato Grillo, approfittando. Beppe Grillo, lo conosce? Beppe Grillo era un comico anni fa, saliva sui palchi, sì, sì. Spaccava i computer. Poi ha fatto politica. Poi ha fondato un partito anche con un signore con capelli lunghi. Ha un sacco di parlamentari. Andava nelle piazze a mandare a fare in culo chiunque. Ha un sacco di parlamentari, però negli ultimi mesi ci siamo sostanzialmente. Come si chiama? Grillo. Beppe Grillo, aspetta che guardo un attimo su Google, aspetta un secondo. Sì. Aspetta, che cerco. Ma c'è ancora? Ah, Grillo, sì, Beppe Grillo, Movimento 5 Stelle. Dice che il ricatto sull'articolo 18 è della BCE. Senti che ha detto. Da BCE. Il ricatto sull'articolo 18 è fatto dalla banca, dalla BCE. Noi siamo sotto scacco a questa gente qua. Che sia giusto o sbagliato, non sta a me dirlo. Ma io non accetto nessun tipo di ricatto di una banca centrale. Poi tocchiamoci tutti, ci sarà un nuovo crack come nel 2008. Cioè Grillo fa il tifo per la sfiga. Ci sarà un nuovo crack come nel 2008. Senti. Draghi, la BCE come si sta comportando in questo momento? Ma sta ricattando con l'articolo. Allora, nel 2008 c'è stato un crack, te ne sei accorta? Nel 2008 c'è stato un crack finanziario con i subprime, i derivati, va bene? Ora sta tornando tutto come prima. E poi questo è il massimo. Ma non sa niente. Aspetta questa cosa. Ci salviamo grazie ai pensionati e ai dipendenti pubblici, sostiene Grillo. Senti, pazzo, come è una roba incredibile. Ma se il Fondo Monetario dovete adesso tagliare le pensioni, l'ha detto bello chiaro. E dove vuoi andare? Cosa vuoi tagliare? Cioè, abbiamo 22 milioni di pensionati. Se non tagli lì, dove vai a tagliare? Stipendi 6 milioni di persone che hanno stipendio pubblico. Dove vai a tagliare? Sono 28 milioni, metà degli italiani. L'altra metà è sott'acqua. E quella che tiene in piedi tutto sono i pensionati e i pubblici impieghi. Certo. Tutti numeri e libertà, a 28 milioni meno 4, del PIL al 4%. Vabbè ragazzi. Ma ti rendi conto? Abbiamo con noi Giampiero Mughini, ciao Giampiero. Molto bene. Bentrovati carissimi amici. Come molto stai Giampiero, come stai? Sai, alla mia età ogni giornata è tanto di guadagnato. Non ti sentiamo da un sacco di tempo. Cosa hai fatto quest'estate, caro Giampiero? Ma fondamentalmente sesso, droga e rock and roll. Ma come sesso, droga e rock and roll? Droga, credo che tu non ti sei mai fatto di droga, credo. Mai, anche, mai. Anche quando eri, come dire, del movimentista, no, con no, un po' di sinistra. Una volta uno mi disse, se lei vuole fumare, io credevo che mi volesse dire, insomma, le sigarette normali. Io no, dico, guardi, non fumo. Ma invece lui voleva dirmi quell'altra cosa e io quell'altra cosa. Cioè, gli spinelli, niente, ma mai. Ma io non ho mai pensato di dover, diciamo così, mettermi dentro qualcosa che non avessi. Quello che avevo, cioè, mi bastava. Perché all'epoca intorno a te girava gente che si faceva l'eroina, quando ma tu eri... adesso non dobbiamo esagerare. Beh, non dobbiamo esagerare. Io di eroina nei miei paraggi non ne ho mai vista. Ma onestamente io sono talmente distratto su queste cose. Questo pure io. Mi dicono che se uno si faceva, è fatto di cocaina, non me ne accorgerei. Effettivamente è vero. Forse perché sono matto di mio, eccetera. Sì, certo. Senti, ma sesso, droga e rock and roll. Rock and roll, vabbè, ti piace la musica. Sesso... Vabbè, adesso non mi dire che sesso è... Beh ragazzi, ma sai, Berlusconi mi fa... Una pippa, sì, vabbè, ho capito, sì, lo dico io. Beh, insomma... Ma pure tu le pilloline, no? Come dici? Pure tu le pilloline, Giampiero. Io non avrei nulla per contro le pilloline. Sai, io ho avuto un'operazione per un tumore maligno alla prostata che, insomma, mi ha un po' conciato male. Però... ancora facciamo del nostro meglio, no? Beh, vabbè, o del nostro peggio, sai, la differenza tra il nostro meglio e il nostro peggio, contrariamente a quello che pensa Grillo, è molto sottile. Ah, a proposito, hai visto Grillo che dice? È ritornato. Io ti confesso che ho un interesse per Grillo da 0 a 1500, 0 meno. Quindi onestamente le cose me le riferiscono, ma non... È scomparso però dall'orizzonte, diciamo, dal dibattito. Non so se ci sia mai stato, aveva i voti, ma non l'orizzonte. No, questo può essere, però diciamo è completamente, cioè non è più importante, insomma, non è più... No, perché è una cantilena talmente prevedibile, talmente prevedibile, è un'esplosione di banalità triviali, talmente prevedibile, e qui onestamente sono in tanti quelli prevedibili, sai? E questa vicenda dell'articolo 18, che è una vicenda innanzitutto simbolica, perché ognuno di noi ragionevole, ecco, tu sa bene che non è c'è o non c'è, pop, salta il lavoro, salta. No, è una vicenda simbolica, però come vicenda simbolica andrebbe chiusa in 5 minuti. Ecco, appunto, tu con chi stai, diciamo, con i sindacati, con la parte del PD che si oppone a Renzi, oppure con Renzi a spada tratta? Posto che Renzi e i sindacati c'è una inimicizia di fondo, perché sai, io come generazione appartengo ad una generazione che quando diceva sindacati diceva Giuseppe Di Vittorio, diceva Luciano Lama, diceva Vittorio Foa, Trentin, diceva Bruno Trentin, diceva Pier Carniti. Allora è come dire paragonare le Olimpiadi, gli atleti olimpionici, a quelli del quartiere sotto casa. Qualsiasi cosa dica la Camusso a me non interessa. Esatto, ma appena e parla Bonanni, appena Bonanni che se ne va domani, scusami, ma allora appena parla la Camusso, parla Bonanni, cioè che cosa ti viene in mente? Una tristezza infinita, una tristezza infinita, un copione che è stato scritto, ma insomma un copione molto stanco, un copione che credo, non lo so, ma non ci si può credere, ma comunque la politica italiana è questa. Io ti confesso, da un po' di giorni non leggo più gli articoli sull'articolo 18, ma un copione è già scritto. Sai, dunque, quando il sindacato, per tanti anni, il sindacato ogni volta che pronunciava la parola lavoratori, io dicevo, caspita, stanno parlando anche di me. E poi ho capito che no, stanno parlando dei loro iscritti, stanno parlando di una burocrazia invecchiata e avvizzita. Se ci fosse uno sciopero in Italia, cioè si fermassero treni, autobus e poste, per questi motivi sarebbe l'ennesima nostra sciagura o arlecchinata. Siamo qui la Zanzara con Giampiero Mughini in collegamento con noi. Caro Giampiero, c'è però la vicenda incredibile a proposito di sindacati. Volevo chiederti subito Riccardo Muti, il grande Riccardo Muti, costretto a lasciare il Teatro dell'Opera di Roma per colpa dei sindacati, dei privilegi dei sindacati, scusa, degli scioperi continui. Aveva girato Prova d'Orchestra, ormai saranno passati 30 anni. Quindi non è che la Prova d'Orchestra parlasse di altre cose, parlava esattamente di questo, della forza di ricatto di un organismo interno sindacale, riguardi il Teatro dell'Opera o qualsiasi altra cosa. Quella del Teatro dell'Opera, per come viene raccontata anche oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera, è una cosa da lasciare inorriditi. Ma l'Italia oggi è questo, un gruppo di ricattatori, luogo per luogo, un gruppo di ricattatori. Ora, no, io non dico che lui fosse il più grande statista di tutti i tempi, ma quando Reagan si trovò dinanzi allo sciopero dei controllori di volo, li licenziò in blocco. Però chiamò i militari. Io non, per carità, però ci sono dei ricatti che andrebbero. Sì, questo così è vero. Come la, ma non c'è un po' di capriccio, Giampiero, anche da parte del maestro Muti, un po' di capriccio della star, un po' di, c'è forse anche un po' di questo. Luogo, Muti è una star, non c'è nulla di male o di singolare o di imprevedibile che una star abbia dei capricci o perlomeno un orgoglio. Io poi non voglio parlare, sentenziare di cose che non è che le conosco come se fosse la mia tesi di laurea, però mi pare che quello sia. Guarda, c'è anche l'indennità per Caracallo, l'indennità per muovere la testa, ci sono delle cose naturale, pazzesche, dai. Ma Dio mio, ma tu lo sai che negli organismi rappresentativi regionali, a un certo siciliani, della regione siciliana, hanno creato quello che smista le carte. Perché da un tavolo all'altro nella stanza accanto ci vuole uno addetto specificamente. Adesso, sai, 20 anni fa forse non ci facevamo caso. Tutti difesi dai sindacati, questi qua, tutti difesi dai sindacati, gli stessi che si oppongono al fatto che uno venga licenziato. Camera, ma scusa, i sindacati della Camera che mi pare siano 11. Sì, mi pare siano 11. Sì. Perché poi, sai, non sono solo quelli dell'Opera. No, della Camera sono 11. Senti, invece. Allora, un attimo, io non vorrei che tu mi fraintendessi. Io non che penso che il mio vicino vada scotennato, no, questo no, però a Dio santo, al Parlamento, nel Parlamento italiano, uno che abbia 150.000 euro lordi di stipendio anno è proprio un pezzente. Cioè di dipendente dalla Camera. Senti una cosa, ma questa vicenda di Genia Carogna, di cui abbiamo parlato anche ieri, arrestato 5 mesi dopo, ma è una stronzata, dai, su. Una stronzata. Io penso che Genia Carogna in quella sera, Genia Carogna non è che c'è bisogno di scrivere un libro per dire che cos'è, è un capo energumeno, una macchietta forse anche drammatica di questo questo mondo che non è che ama il calcio, ama la rissa, lo spirito di tribù, eccetera, eccetera. Però Jenny Acarogna, in quella serata drammatica, sì, si è comportato bene, perché la trattativa, le trattative, contrariamente a quello che dicono i cretini, sì, le trattative si fanno sempre per evitare il peggio, nella guerra, durante la guerra partigiana. Per cui Jenny Acarogna era una specie di, come dire? Jenny Acarogna era in quel momento il capo degli energumeni che avrebbero potuto solo peggiorare la situazione. E poi sul piano personale Jenny Acarogna, uno che non restò a vedere la partita, mandò all'ospedale, sì, a visitare, sì, l'amico. Però, insomma, pregiudicato con vari precedenti. Comunque, se vuoi lo arresti proprio in quel momento, se proprio, ma non ci metti 6 mesi per arrestarlo. No, ma la cosa pazzesca, lì per arrestarlo, perché quello, no, fa delle sfilate grottesche, grottesche da capobanda. No, perché dice che era capo di una banda, di un'organizzazione militare che ha scatenato l'inferno anche fuori dallo stadio. Ma va benissimo, ma 6 mesi dopo, ma già lo sapevi. 6 mesi dai, dopo te ne accorgi? No, ma dai, ma infatti è andato arrestato subito dopo. Certo. Il mestiere che fa Jenny Acarogna, te ne accorgi 6 mesi dopo? Invece, lo sai che mi hanno attaccato perché ho detto che nella morte del ragazzo napoletano di 17 anni, sì, quello sul motorino di cui si è parlato per settimane, io ho detto che una parte di responsabilità anche grossa ce l'ha l'illegalità di Napoli. Insulti, minacce. Naturalmente, detto con rispetto per la fine di un ragazzo, sempre, giovane, eccetera, eccetera, ma lì è un'atmosfera da guerra civile, altro che prima guerra mondiale. Qui siamo in alcuni quartieri, sì, di, sì, Napoli, del sud, eccetera, eccetera, in alcuni quartieri siamo nell'ordine del pericolo prossimo, imminente, minuto per minuto. Naturalmente, cosa vuoi che ti dica? Ripeto, non ci sono parole per dire la morte di un ragazzo di 17 anni. Però è Napoli che l'ha ammazzato, diciamo. Però la verità. È Napoli che l'ha ammazzato, è un'espressione. Quel mondo lì è un coazionista di quell'episodio drammatico. Senti, un'ultima cosa prima di lasciarti, ma ho letto che addirittura Agnelli, secondo Moggi, Agnelli potrebbe diventare il capo della Ferrari e Nedved della Juventus. Ma tu chi ci vedi a capo della Ferrari? O non te ne frega assolutamente nulla della Ferrari? No, immagino. Come non me ne frega di uno dei grandi brand, certo, italiani, dell'intelligenza, del design italiano. Ma Marchionne è stato troppo duro con Montezemolo? Beh, sai, le rotture a quei livelli lì di solito, poi duro, sai, insomma, gli è scappata una parola. Sì, ma con tutti quei soldi, chi vedresti a capo della... Io Briatore, capo della Ferrari, sarebbe... Beh, Briatore, per dei motivi che sono evidenti, andrebbe benissimo. Io poi penso che Briatore farebbe bene qualsiasi mestiere, dal capobanda in un quartiere, eccetera, eccetera, a ministro di qualcosa, perché è Briatore intelligente. Io, che sai, non frequento nessuno. La prima volta che l'ho visto mi dicevo, ma chi è questo? Perché era vestito in un'area. Poi dopo che ha detto cinque parole, ho detto, questo è un uomo molto intelligente. Si pare che ci sia uno scazzo tra Razzi e Salvini, Parenzo. Uno scazzo mondiale. Uno scontro tra titani proprio. Razzi e Salvini. Su che cosa? Ancora su sto famoso viaggio. Il viaggio in Corea di Razzi e Salvini è diventato una sorta di tormentone nazionale, una sorta di telenovela infinita, perché non si capisce bene. Io lo so perfettamente chi ha pagato il viaggio. Allora, Razzi, beh, l'hanno detto anche loro. Sì, però, ma l'hanno detto. Guarda, senti, Razzi dice: in Corea il conto delle stanze è stato pagato dal governo coreano. Senti. Ecco. Sky che fa la campagna sulla camera pagata in Corea. Ah sì, a me che me ne frega, quelli l'hanno pagato tutti, noi la camera non abbiamo pagato niente. D'albergo, tu hai detto che l'ha pagata il governo coreano? Sì. Salvini invece dice: viaggio in Corea pagato da me. Confesso una mia debolezza, una mia debolezza è che sono curioso. No, non mi piace, no. Razzi. Però la Corea è un paese sconosciuto e io voglio toccare con mano qualcosa, sì, prima di giocare. Ma proprio con Razzi. Vabbè, insomma, mi sono pagato il viaggio, potevo andare anche con lei. Ah, e l'ho pagato io di tasca mia, quindi invece di andare in Sardegna sono andato in Corea del Nord. Vabbè, ragazzi. ragazzi, il problema non esiste. Il viaggio in aereo solo sono pagati loro, i deputati, gli imprenditori. Lì ha pagato il governo coreano bitto e alloggio, punto e basta. Problema chiuso. Questo è il punto. Problema chiuso. Ma com'è? Cos'è che fa lo Stato a questo qua che va in motorino senza nulla? Cos'è che gli fa lo Stato a questo ragazzo di Napoli intervistato dal servizio pubblico? Cos'è che gli fa lo Stato? Sentiamo. Lo Stato a me mi fanno un buchino. Capito, sì. C'è questo senza casco, senza assicurazione, in tre, in quattro, dice. E lo Stato, è lo Stato, è lo Stato. Lo Stato a me mi fanno un buchino. Dale su. Napoli, città. Com'è che ha detto il sindaco? Città della legalità! Tipi da zanzara! Tipi da zanzara! Antonio dalla provincia di Como, fammi sentire. Devi multare i clienti perché molto bravo. Sì, vai, ecco, perché bravo. Lo sfruttamento della costruzione. Saluto anche l'emerito coglione che c'ha di fianco. Mi saluti a casa la famiglia, tutto bene? Sì, non si preoccupi, lasci stare la bravi, famiglia, bravi. Siamo io e lei. Siccome lei ha iniziato a insultarmi, no, mi saluti tutti a casa. Mi saluti a casa la famiglia. Mi saluti a casa tutti. No, lei non si preoccupi. Sta bene lei, salute, sì. Coglione. Antonio, mi ascolti un secondo? Ma i coglioni, la gente con le telefoni facci moderati. Ma mi ascolti Antonio o no? Che ti voglio chiedere una cosa. Mi ascolti o no? Sereno, cazzo. Allora fai così con me, ascoltami. Stai, guarda, ascolta Antonio, guarda, un secondo solo, guarda, fai così con me e poi parliamo. Dai, frenare, vai ancora. Un bel respiro. Cazzo, allora, 500. Prima ide. Chi ti arrabbi con quello? C'è una che ti arrabbi così. Non sto ascoltando te, col telefono in mano. Ok, io sono qua. Ma tirala sotto, ma che ti frega Antonio? Tirala sotto, su Antonio Coniglio. Tirala sotto, che ti frega tu col camioncione. Bravissimo. È un riccione questo, sicuramente, perché ne sta già. Ma certo. Arrivando. Certo. Ma via, parolacce. I viaggi. Suona ancora, dai, suona ancora, su con la ragazza. Suona. Mamma mia, Antonio. Ascoltami, Sant'Antonio. Sì, ascoltami, Antoniuccio mio. Mi ascolti 30 secondi prima del signor bagaccio. Scusami, professore. Tipi da zanzara. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Primi raid aerei della coalizione antigihadista in territorio siriano, colpite basi ISIS a Raqqa e altre province. Con i jet USA anche 5 paesi arabi. Obama non è solo una lotta dell'America. Renzi al summit sui cambiamenti climatici. I nostri figli si aspettano accordi vincolanti. L'Italia pronta a contribuire. Da economia verde milioni di occupati. Lavoro, 7 emendamenti della minoranza PD. Piena tutela dell'articolo 18 dopo 3 anni di contratto. Poletti, licenziamenti discriminatori mai in discussione. Mossa a sorpresa del leader della CISL che lascia con 6 mesi di anticipo sulla scadenza del mandato. Domani l'annuncio ufficiale. In poll per la successione Anna Maria Furlan. Ancora una fumata nera per l'elezione di 2 giudici della Corte Costituzionale. Si sblocca invece lo stallo per il Consiglio Superiore della Magistratura, eletti Zanettin e Balducci. 2 donne uccise a coltellate, ancora una volta i compagni sotto accusa. A Pisa chiusa l'indagine sulla scomparsa di Roberta Ragusa, il marito accusato di omicidio. Condanne per tutti gli imputati della morte di Stefano Cucchi. In appello il procuratore generale chiede di ribaltare la sentenza di primo grado. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Grande rubrica. grande rubrica della Zanzara, perché l'Italia è un paese di merda. Oggi abbiamo, caro Parenzo, un paio di notiziole. Sì, un paio di notiziole. La prima molto è questa. Bene. La prima è questa. Mi galvanizza questa rubrica, mi galvanizza. La prima è questa. Da Napoli, ovviamente, viene questa notizia. Da Napoli, che non posso dire che ce l'abbiamo con Napoli quando arrivano queste notizie. Napoli è la capitale europea dei soldi contraffatti. Più del 50% delle banconote false che circolano nell'Unione Europea hanno il marchio Made in Naples, amico mio. C'è del talento, però, Su, sì, c'è certo. del talento, però c'è del talento. Dice la Guardia di Finanza che negli anni si è affermata una scuola napoletana di falsari. Vedi? Dopo quella delle cravatte, dei sarti. Che anche accoglie questa. Delinquenti da tutta Europa che organizzano viaggi studio nel capoluogo campano per imparare i segreti della contraffazione delle banconote. Ecco, se tu sostituisci a banconote la parola sartoria o cravatte, è uguale. Questa è la merda d'Italia! Questo è! Oh, abbiamo già detto prima, la vergogna assoluta di Riccardo Muti che lascia il teatro dell'Opera di Roma, perché coi sindacati non si può fare nulla, troppi privilegi, indennità ridicole. Lo sai quanto ha di buffi il teatro dell'Opera di Roma? 28, di buffi, cioè, diciamolo, buffi sarebbe, debiti, detto, sì, debiti, 28, detto la romana, buffi. Sì, buffi, ormai si sa i buffi cosa sono. 28,8 milioni di deficit. Ma uno perché deve sovvenzionare questi sindacalisti, questi dipendenti sindacalizzati? I teatri di Stato vanno aboliti. Il teatro di Stato non deve esistere. Io perché devo se uno vuole andare là, paga il teatro e si finanzia con i biglietti, no, il teatro. Cioè deve essere altrimenti a casa. È un'Italia di merda. Lasciatemi. Ovviamente suggeriteci notizie e altro sull'Italia di merda. La Zanzara è radio24.it. Vittorio da Biella. Buonasera, Vittorio. Oh, carissimi, vai. È un piacere sentirvi, la prima volta ci sono riuscito, vi sento sempre. Vai. Amore, odio, vabbè, più odio che amore, lo devo dire. Allora, ho telefonato per una cosa molto semplice. Allora, io sono di Napoli, da sempre fuori Napoli per lavoro, adesso sono in viaggio per lavoro e sento questa cavolata che chiaramente avete passato della serie lo Stato mi deve fare puntini. Cosa? Un buchino. Okay. Uno che è stato intervistato dal servizio pubblico e che ha detto lo Stato mi deve fare un buchino. Chiarissimo. Allora, il problema fondamentale è sempre questo. Allora, è per gente come voi, per giornalisti come voi, e poi alla fine si parla sempre male di Napoli. Ancora con sta storia. È la realtà. Io faccio un lavoro commerciale e credimi, interfacciarmi io da napoletano al nord è una cosa inverosimile. È improponibile, è una cosa assurda. Per colpa nostra. Ma no, dai, su. Queste idee retrograde che purtroppo ci sono, questi luoghi comuni. Sì, sono luoghi comuni. Hai fatto un giro a Napoli? Sei andato a Napoli? No, sono stato sì nel passato, adesso non è che è facile andare a Napoli per me, comunque. Addirittura. C'è il passaporto. No, non c'è bisogno per fortuna del passaporto. Ah, e allora, speriamo in futuro. Tonino da Napoli. Fammi sentire Tonino da Napoli. Vittorio, è chiarissimo quello che hai detto, è colpa nostra se ci sono idee sbagliate su Napoli. Tonino, Napoli. Buonasera Giuseppe, buonasera. Dimmi. Ciao caro. No, subito ciao. Sintetico, una sola cosa. Vorrei sapere come mai lei menziona, io non lo difendo però, quel Jenny Agarogna. Io non difendo Jenny Agarogna. Dico che l'arresto sei mesi dopo, secondo me, è una follia. Io sono una persona educata, spero che lo sia anche lei. Mi faccia parlare. Oh, avanti. Allora, lei non ha menzionato mai il De Santis che ha ammazzato una persona. Ma figuriamoci, ma che me ne frega di quell'assassino? Se si dimostrerà che è un assassino, è un assassino. Se verrà dimostrato che è un assassino, è un assassino, un criminale, un delinquente, cosa vuole che le dica di più? Non ne parla mai. Ma di che devo dire? Che devo dire su questo De Santis? A me che me ne frega, ma figuriamoci se difendo uno come De Santis, ma lei è impazzito. E perché non ne parla mai? Ma che vuol dire? Ma che cosa devo dire? Ma mi devo ma dire il tema lei? Non è questo, stavamo Vabbè, parlando Tonino, del... Tonino, arrivederci. Yeah. italiani si incazzano per l'opera favolosa, fantastica, realizzata, le opere, l'idea messa in pratica da due argentini, caro Parenzo. Due argentini che hanno realizzato delle Barbie e dei Ken. Con la Madonna, Cristo in croce, eccetera, Ma sono delle cose meravigliose, cioè si incazzano i vescovi perché dice la religione non è di plastica. Lo trovano irrispettoso, ma io voglio assolutamente che uno giochi con Gesù, con, ma, sì, con ma, madre, ma in con realtà è l'esaltazione massima della religione. Sì, anch'io infatti. Cioè, in parte quando penso si realizza una Barbie, no? Con una Barbie Madonna, un Ken Gesù Cristo in croce, un Ken, tra l'altro c'è anche Buddha, ma Maometto non lo fanno perché poi è anche complicato. Sì, ma è anche lì, amico mio, sì, se vai a fare quello. Sì, d'accordo. Già c'è il signor Al-Baghdadi che ti non tagliano è la gola, uno dei più moderati della storia, signor Al-Baghdadi, No, d'accordo. Che in questo momento sta ricevendo dei giusti e moderati bombardamenti da parte degli americani. Vabbè, d'accordo. Però bisogna dirlo questo, signor Al-Baghdadi. La Barbie vestita da Madonna Ken come Gesù Cristo è irrispettosa, io le posso anche ma capire. Ma quale irrispettosa? Significa che ancora esiste come iconografia, come immagine la Madonna e Gesù Cristo, cioè l'esaltazione massima della religione. I vescovi dovrebbero dire grazie a questi due. Grazie, signori argentini, giovani ragazzi argentini, i quali adesso dicono di no, ma fra poco metteranno in commercio, perché io le voglio. Per esempio, io voglio comprare oggi la Barbie. Ma la Barbie Madonna e Ken Gesù Cristo. Con la Barbie, no, le voglio mettere in casa. Le voglio mettere in casa. Ma mettiti la Barbie grandi Madonna oggetti di modernariato, grandi oggetti di design. Sono sicuro che il signor D'Agostino, che magari ci sta ascoltando, comprerebbe immediatamente. Beh, questo sicuro, immediatamente, certo. La Barbie Madonna e Ken Gesù Cristo. Dai, su, i vescovi italiani che si arrabbiano, ma sai che gliene frega quelli che mettono in commercio sta roba, che metteranno in commercio questa roba dell'arrabbiatura, anzi, a maggior ragione la metteranno in commercio. Oh, Forchielli, vogliamo sentire Forchielli ieri sera? Forchielli è magistrale, Forchielli. Signor Forchielli, Forchielli. Grande. Che io non so che mestiere fa, tra l'altro, Forchielli. Non si capisce come? Che mestiere fa. No, che mestiere? No, Forchielli si occupa di portare le aziende in Cina. Non solo, in Cina. Anche in parlando India. Parlando male dei cinesi, peraltro. Parlando malissimo dei cinesi. È straordinario, Forchielli. Sull'articolo 18, senti questa roba qua. Stupendo, eh? Stupendo. Gli stranieri. È un momento che io sto facendo raccolta fondi sia in America che in Europa, in Germania. Mercoledì torno in America, ho fatto la Germania. Come va? 3 settimane. Non c'è nessuno che ti chieda l'articolo 18. Non gliene frega un cazzo. Sai perché non ce lo chiedono? Perché ci danno morti. Ah vabbè, ci danno per morti. Ci danno per morti. Apocalittico, meraviglioso. 25 anni fa, senti che succede secondo lui. Noi 25 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, nel passaggio dal GATT al WTO, quando abbiamo globalizzato il mondo, abbiamo lasciato le palle dentro lo sportello e non ce ne siamo accorti. E adesso la paghiamo. Senti ancora sull'articolo 18 che è come un morto che muove un dito dentro una bara, cioè penso che è necessario abolirlo, che lui dice è necessario per dare un segnale, ma sempre morti rimaniamo rispetto ad altri paesi che fanno pagare, no? Che fanno pagare gli operai, che pagano gli operai pochissimo e altro ancora. L'articolo 18 è come un morto nella bara che muove un dito, che viene riportato a pronto soccorso. E di per sé non crea né occupazione né disoccupazione. Oh, dove andiamo? Andiamo a Brescia, Fabio, buonasera. Pronto? Vai. Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Ieri sera ero incazzato, adesso sono solo indignato. Perché quando avete fatto intervenire la signora Esposito. Sì. E gli avete chiesto se sapeva chi era Racciti, quello che portava sulla maglietta uno che era speciale, gli abbiamo chiesto. Lei ha risposto che non sapeva chi era. Sì. Sono indignato perché tu avresti dovuto interromperla e dirgli chi era il signor Racciti. Vabbè, ma è uguale, dai, non è quello. No, l'importante. Non è uguale, perché anche quando è intervenuto il signor Liguori, grande giornalista, ha fatto un pippone a questa signora qua, ottimo discorso. Tralasciando che non ha, ha menzionato volutamente un poliziotto morto per quella gentaglia lì. Questo veramente mi ha indignato. Il problema, anche dalle parole della madre di Esposito, di Ciro Esposito, è che c'è un'omertà pazzesca. Cioè, quando si tratta di persone vicine, o di persone che comunque appartengono allo stesso tipo di cultura, lei, se vogliamo, fatto... eccetera, c'è una totale omertà. Certo, cioè, non c'è il coraggio di dire quello è un delinquente, signor Gianni Acaroni. Ho fatto di far parte di questa cerchia. Va bene, grazie. Ho capito. Altin Varese, Altin. Altin, sì, ma che... buonasera. Ma come, perché ti chiami Altin, scusa? Perché? Perché sono straniero. Sei straniero di dove? Albanese. Albanese, dimmi Altin, dai. Sul discorso di Matteo Salvini di ieri sera. Cosa? Quale per discorso? Questione dei gay. Allora? Che sono fuori natura, che ha completamente ragione. Sì, ha ragione. Quella bene. Categoria lì sono veramente fuori natura. La categoria lì. Arriva dall'Albania il signor Altin a dirci che i gay sono completamente fuori dalla natura. Ma dai, su, Altin, su. Allora? Perché è la verità. È la verità, dico, sì. Perché io faccio il camionista. Fai il camionista, ecco un altro camionista. Mi fermo, vai. Quando mi fermo sugli parcheggi per riposare è un che ha detto? Roberto, provincia di Genova. Pronto? Dimmi. Sì, ciao. Ti chiamavo per... Sì, parla meglio, più forte però, se no non si sente niente. Roberto, vai. Sì, chiamo sulla storia di Genova. Non si sente niente. Francesco da Napoli, dai. Allora, buonasera a tutti. Io prima sono con Bruno di Treviso per quanto riguarda la persona che è stata condannata per una casa aperta o chiusa. In più sono... Non ho capito nulla, ragazzi, non capisco niente. Volete parlare innanzitutto italiano? Un minimo, Francesco, un minimo, dai, forza, più forte, allora, dai. Io sto con Bruna, quella di Treviso. Ma chi è Bruna da Treviso? Chi è? Quello che fu condannato per quanto riguarda la casa di Squillo. Ah, la casa chiusa, sì, Bruna. Proprio sì. Quanto riguarda sono con anche io favorevole alle case chiuse. E vabbè, sei favorevole alle case chiuse, abbiamo capito. In più vorrei parlare dire sulla situazione di De Magistris, che dice la città di Napoli è la città più legalizzata d'Italia. Sì, sì. Tanto è vero che Napoli è pulita, i turisti superano Venezia e Roma, i monumenti non si sbriciolano, la malavita organizzata non c'è più. Questo qua forse è una dichiarazione che avrà fatto De Magistris dopo che ha mangiato, che secondo me beverà qualche bicchiere di vino in più. In più, per quanto riguarda il signor De Tommaso di Tacarogna, sì. Questo signore penso che sia stato arrestato per quella maglietta che indossava. No, è stato arrestato perché la magistratura, dopo mesi e mesi di indagini, è arrivata alla conclusione che era a capo di una banda criminale e guidava i suoi uomini fuori e dentro l'Olimpico. Ciao, sì, ciao. Ma è una cosa da Napoli che esiste da anni, queste persone. È quello che diciamo noi, lo dovevano arrestare 4 mesi fa. Quando scappa il morto. I'm not content to be with you in the daytime. David, scusa, dove cazzo sei? David! David! David! Oi! Ma dove cavolo sei andato? Scusa, non ho capito. No, ho avuto un attimo un problema. Ma che problema hai avuto? Scusa, non ho capito. No, mi hanno chiamato il cellulare, dai. Ma chi se ne frega? Hai chiamato il cellulare per che cosa? No, un piccolo, niente. Ma ti pare normale che uno se ne va a un certo punto? Sì, no, è vero, è che sono una piccola emergenza. Ma emergenza che vuol dire emergenza? Vabbè. Maria Elena dalla provincia di Genova, dai. Buonasera, senta, io volevo consigliare al signor Razzi e al signor Salvini, che sono andati in Nord Corea, un libro che è uscito in questi giorni di Shin, La mia fuga dalla Nord Corea, dove si leggono delle cose terribili. Avvenire domenica riportava alcuni passi di questo libro che è stato presentato a Torino e a Milano. Una cosa veramente terribile, ma lo sanno dove sono andati? Ma sì che lo sanno, se ne fregano, ma lo sanno perfettamente, certo. Ti hanno stretto la mano, ecco, vorrei consigliare la lettura di questo libro, tutto qui. Va bene, grazie. Vito, Napoli. Ciao, Sandy, ciao. Io sono indignato per quello che uno dice di Napoli, però io sono il tipo che lavoro, pago le tasse, pago l'immondizia, non mi do. E allora incazzati con quelli che non lo fanno, che non sono solo a Napoli, no, ovviamente. No, è perché a Napoli c'è il problema del lavoro, a Napoli in Campania. Sì, sì. Il problema del lavoro. Il lavoro, certo. E chi lo deve dare il lavoro? Chi lo deve dare il lavoro? Lo Stato che non ci aiuta. Lo Stato, certo, lo Stato deve dare il lavoro. A noi non ci aiuta. Ma smettila, dai, con queste buffonate, su. Perché sono buffonate, Cusciani? A noi lo Stato non ci aiuta. Sì. Non ci lo Stato va aiutato anche troppo, lo Stato. Ma no, guarda. Vi ha aiutato anche troppo lo Stato. Quelle criminalità con lo Stato, quella è una unica cosa, hai capito? A noi ci disagio questo qua. Poi il fatto di quell'altro ragazzo che avete detto allo Stato, sì, ma vi ricordate quello che ha ammazzato e l'ha fatto anche a Roma, con la Roma, che era una partita che... Ma quello che c'entra? Sono due cose diverse. No, sono due co- se uno è un delinquente, non è che non è più delinquente perché hanno ammazzato uno, perché un romanista ha ammazzato uno. No, no, e ti ricordi il fatto che proprio lui, De Santis, andò nel campo a parlare con Totti? Perché hanno... Ma che me ne frega a me di queste robe qui? Io, noi stiamo parlando dell'arresto. Stiamo parlando dell'arresto di una persona. Dito, sì, stiamo parlando dell'arresto di una persona. Cos'è, vabbè. Però a lui, è lui è la... Non me ne frega cosa. Niente di quello, ciao. Tu ti devi fare le punture. Le punture di risanamento del cervello. Senza casco, Ah, non hai neanche l'assicurazione? No, non ho l'assicurazione. Perché? Non ho Solo per capire perché. Di sotto non ho l'assicurazione. Però non è pericoloso, perché se metti sotto uno, come fai? È normale, per me è normale. Non male cambiare senza casco. Ma è solo uno. Però andare in tre senza casco... No, guarda. È tutto normale. Guarda, dovevano fare solo un buchino. Mi ricordo. Boh, spostato, a me mi fanno un buchino. Siamo qui con Pippo Civati, Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Ciao Pippo, come stai? Bene. Parenzo, ci sei? Sì, sì. Pronto? Sì. Ci sei o no, Parenzo? Non ho capito. Sono qua, 10 minuti sono qua, poi devo un attimo scappare via. Non c'è nessuno da scappare, si lavora fino alle 20.45, non me ne frega niente. Allora, Pippo, voglio capire, ma sarà lotta dura senza paura sull'ipotesi di abolire l'articolo 18, eccetera, eccetera, cose di cui si discute non da oggi, in realtà, da 20 anni, Sì, di solito si discute tra destra e sinistra, questa volta si discute all'interno del PD. La novità è quella. Poi io spero che non ci sia nessuna lotta, che si arrivi a una posizione più civile, come mi auguro da qualche giorno. Vedo che Renzi, l'area degli Stati Uniti, gli fa bene. Cioè, fa in che senso? Lo fa diventare più ragionevole? No, più aggressivo, magari quando appunto. Quando torni in Europa con jet lag magari gli ritorna normale anche. No, perché qua, Renzi, in realtà in America fa proclami addirittura che bisogna cambiare le cose con violenza. Io sarei anche d'accordo, secondo il mio spirito, lo sai, mi conosci, non sono certamente uno che pensa alle mediazioni, anche perché di articolo 18 di lavoro si parla da 20 anni in Italia senza nessuno sbocco. Ecco, questo accenno che ha fatto alla violenza, che te ne pare? Beh, non è del tutto vero che se ne parla e non si cambia, perché l'articolo 18 è già cambiato col governo Monti. Comunque, la violenza l'avrei evitata, diciamo, almeno i politici non usino quella parola, perché il paese è già in sofferenza, non vorrei che qualcuno, come dire, interpretasse male una battuta, ecco. Cioè, in che senso dici? Non c'è bisogno di parlare di violenza, no? Cioè, lui ha la sua politica, qualcun'altra ha delle obiezioni legittime da portare, e poi vediamo di fare le cose bene. Il contratto unico, con una prova non lunghissima, diciamo entro i 3 anni, può trovare l'adesione di tutto il Partito Democratico, anche delle parti sociali, quindi sarebbe meglio stare su quella posizione. Vabbè, questo è ma con intelligenza. Però pare che di compromessi non ne voglia fare, ma al di là di questo, se mettiamo un caso, no? Cioè che l'articolo 18, l'abolizione, diciamo, adesso non ripetiamo tutto, insomma, l'abolizione dell'articolo 18 venga votato da una parte del PD, una parte consistente del Partito Democratico, ma in Senato per esempio da Forza Italia, cioè ci sia venga abolito l'articolo 18, adesso mettiamo, anche se non è proprio così, con il contributo di Forza Italia. Che succede? Te ne vai dal PD? C'è una crisi politica? Che succede? Beh, mi sembra che se i voti di Forza Italia fossero determinanti si cambierebbe la maggioranza, quindi insomma sarebbe una cosa, un passaggio non banale, diciamo, e dunque? Simmetrico a quello dell'anno scorso. E dunque dovrebbe tornare dal Presidente della Repubblica, cioè sarebbe una cosa complicata, non so se Renzi vuole spingersi fin là. Cioè, secondo te il governo si dovrebbe dimettere perché cambia la maggioranza? No, però se si aggiorna la maggioranza, insomma, va spiegato anche al Parlamento, non è un passaggio così... Cioè, no? Concretamente, no, secondo me no, perché è un singolo provvedimento, cioè sui singoli provvedimenti si possono pure trovare maggioranze, è vero che è un metti che ci mette la fiducia o che il tono è quello. No, la fiducia è un altro discorso, cioè la fiducia è un altro discorso. Ma se vediamo, insomma, è un po' presto per fare questo ragionamento perché si vota fra una decina di giorni, se ho capito bene, in Senato, quindi prima c'è l'elezione politica, prima di buttare via tutto, io spero che ci sia un po' di buonsenso anche perché è di misura, altrimenti... Senti, ma secondo te con l'articolo 18, insomma, con i licenziamenti più facili, mettiamola così, Renzi realizza un sogno di Berlusconi? Ma non lo so, bisogna capire qual è il suo sogno. Lui dice che vuole cambiare tutto, l'importante è che cambi tutto perché per aumentare i diritti delle persone che lavorano, per trovare forme semplificate ma non brutali, perché altrimenti non è... il sogno di Berlusconi. Ho visto Sacconi che è molto entusiasta, però sì, Sacconi fa parte della maggioranza, però è il governo, è certo, lo so, però che sostiene il governo, certo, c'è anche Formigoni, Giovanardi, ricordiamoli un po' tutti, ma appunto ma come ma non è che lo scopri oggi, no? State parlando con quello sbagliato, no? Infatti sì. Nel senso che, come dire, gli esponenti della destra di governo che ha governato il paese per tanti anni sono molto contenti di questa soluzione dei toni di Renzi. A sinistra un po' meno, diciamo così. Cioè in realtà l'articolo dice di questa roba qui, chi è entusiasta, chi è leggo Brunetta sicuramente, tutto l'NCD d'accordo perché l'aveva già detto Brunetta, Squinzi, cioè sostanzialmente è un provvedimento, un provvedimento. Anche Feltri che fa degli editoriali bellissimi, anche Feltri, sì, certo, anche Feltri. dunque come potete capire, se piace tantissimo, cioè tu lo voterai così com'è, non lo voti così com'è, il mio voto non ci sarà, ma non è decisivo per le sorti di questo governo, come è noto. Il problema è capire quante persone sono in difficoltà su questo voto e se si può evitare di mortificare un'intera parte del Partito Democratico, che mi sembra essere più larga del solito su questo argomento. Senti, secondo Scalfari... Aggiungo una cosa, dimmi. Anche della sorpresa e anche un po' dell'azzardo, che quest'estate se ne è lungamente parlato e Renzi bollò queste polemiche sull'articolo 18. Come no? Come delle cose balneari, sì, ma l'abbiamo ricordato, aveva anche detto non me ne può fregare di meno dell'articolo 18 nel passato. No, ma infatti dico che dovrebbe venire in Parlamento a dire ho cambiato idea sull'articolo 18 e penso che sia importante per risolvere i problemi della disoccupazione, per gli investimenti stranieri e tutto. Dovrebbe essere chiaro su questo, perché è ambiguo, perché prima aveva detto che non glielo poteva fregare di meno, adesso invece nemmeno in maniera troppo chiara con gli emendamenti, con un po' di sotterfugi, dice che bisogna cambiarlo, oppure fa dire che bisogna cambiarlo. Ci vorrebbe io sono a favore del cambiamento, ma ci vorrebbe più chiarezza da parte del Presidente del Consiglio, lo possiamo dire o no, Civati? No, dovrebbe anche essere più leggibile il percorso, perché se uno torna dalle vacanze e cambia tutto, l'impostazione del governo, del partito, capite che qualche dubbio, qualche perplessità possa crescere e soprattutto il gioco può scappare di mano, perché finché sono i singoli parlamentari che hanno qualche problema e che non incidono sulla maggioranza di governo, come abbiamo detto, non c'è nessuna preoccupazione per il governo, per la stabilità, però se le cose appunto diventano più tese e le divisioni diventano più profonde, si pone anche un problema di stabilità. Ma secondo te ha insultato i sindacati? Non è che li ha insultati, non gli sono mai piaciuti, e anche lì l'escalation aveva detto se vogliono autunno caldo glielo daremo, una delle frasi di Renzi gliela ha dato. Secondo te è un maleducato Renzi, come caratterialmente? Ma non è un maleducato, è Renzi, è fatto così, ha sempre... Cioè come è fatto? È fatto come ha fatto Renzi, ormai la persona di cui parliamo di più, anche in questa intervista parliamo solo di Renzi. Di che dobbiamo parlare? Non lo so, ci sono tante. Io per esempio devo tornare a votare in aula, non vorrei che cadesse il governo, tra un po' mi devo salutare. Sì, ma quello lo sappiamo. Senti, secondo Scalfari la differenza tra Renzi e Berlusconi è il bunga bunga. Ma no, ce ne sono tante altre, guarda, l'equazione è sempre sbagliata. Certo è che io sono stato eletto per fare politiche diverse da quelle di Berlusconi, quindi anche sull'articolo 18 forse un po' di cautela, di attenzione per le ragioni degli altri farebbero bene a tutti. Ma cosa unisce secondo te Renzi e Verdini? Cioè tu stringeresti la mano a Verdini per esempio? No, non ho mai avuto l'occasione, ma mi pare che loro siano amici da tempo, no? Si conoscono da tanti anni. Non ti stupisce il legame che c'è tra i due? No, un po', cioè io non ce l'ho il legame così forte. Cioè gli stringeresti la mano o no? ma io gliela stringerei, sono una persona educata, però non andrei molto più in là, nel senso che non credo. Cioè, non lo inviteresti a lavorare sulla Costituzione, insomma, no? No, direi che ho un elenco prima di persone da intercettare. Ciao, ciao, ciao, a presto. Ho detto intercettare, ma non volevo dire intercettare. Ciao. Ciao, ciao. Mi sembra che siete pazzi entrambi, comunque. Andato in onda da Udine Sgarbi. Paolo da Udine, chi è? Paolo. Sì, buonasera. Vai, dimmi. Senti Cruciani, sono 20 minuti al telefono che sto aspettando di intervenire. Vabbè, succede la zappa. No, ma la cosa è peggiore, che devo ascoltare Sgarbi, ma perché cazzo? Vabbè, ho capito, ma se vuoi ascoltare Sgarbi era molto meglio. Perché cazzo lasciate, io ho aspettato 20 minuti, perché cazzo inviti Sgarbi? Ma cosa vuole sto Paolo? Ascolta una cosa. Perché non vai a cagare? No, vai a cagare tu. Perché tu, sei stato condannato per assenteismo. E tu lo fai parlare, Cruciani, questo qua non lo devi far parlare, capito? Una zucca vuota. Sì. Ma non ho capito, Paolo, ma cosa vuoi questo qua? Dai bronzi di Riace in testa, tu. Con mille persone ascoltavano a me, se parlavo di uno che studia 30 anni in aspettativa. E c'è gente disoccupata e tu che parli di disoccupazione. Qui devi andare. Un attimo, Vittorio, che cosa rimproveri a Sgarbi, Paolo? Non ho capito. Cosa rimprovero? Cioè, questo ti parla di disoccupazione di lavoro e questo è stato condannato per assenteismo. È uno che è stato 30 anni in aspettativa. Vabbè, e io mi devo rompere i coglioni con uno che non sa fare un cazzo e non fa un cazzo e guadagna. Ma no, non sa fare. Ma dai, basta! Ignorante, ignorante sarai tu, un caprone sarai tu, hai capito? No! Stai zitto, Paolo! Guarda che gente. Paolo, stai zitto! È stupido! Ah, roba da pazzi! Perché fate parlare questi cretini? Lo so, sì, è vero, che dobbiamo fare? Sono queste teste di cazzo! Questo è il risultato di questa incultura! Io sono stato in aspettativa senza segni come qualunque laureato e poi ed insegnante. Sì, e pensi di essere stato condannato ingiustamente? Vabbè, questo l'abbiamo detto mille volte. Ma cosa vuol dire 30 anni? Cosa stai dicendo questo idiota? Condannato poi dai magistrati, ignoranti! Cosa sta parlando questo idiota? Ma dove avete trovato questo imbecille? E che ne sai, uno che interviene, uno che interviene da Udine. Da Pistoia, buonasera Cruciani, buonasera Parenzio. Dimmi. Allora, no, Parenzo se n'è andato per i cazzi suoi. Vai via. Vabbè, buonasera qua. Allora, a parte che rispetto tantissimo te e il tuo programma, perché hai avuto un modo geniale di cambiare la voce della radio in Italia parlando di politica in un'altra lingua. Detto questo, mi sembrava un po' ridicolo parlare di religione come ne ha parlato poco fa, cioè nel senso dire che è geniale il fatto che ci siano due bambini al crocifisso e sia la massima espressione della religione, insomma da cristiano, poi non so la tua posizione religiosa, però da cristiano praticante mi sembra sia un po' ridicolo. Vabbè, tu trovi ridicolo, io trovo una idea artistica fantastica, quella di creare delle bambole con Barbie Madonna e con Ken con Cristo in croce, lo trovo fantastico, lo trovo un'idea grandiosa, punto e basta, non la trovo per niente offensiva, chi si offende è un bigotto, si vede Cristo in tutte le salse, dappertutto, non capisco qual è il problema. Se lei si offende, rispetto questa cosa qui, ma che addirittura su una cosa del genere debbano intervenire i vescovi creano un effetto esattamente contrario, cioè creano l'effetto contrario, cioè quello di dare pubblicità ad una cosa che sarebbe passata totalmente inosservata, perché una cosa che sarebbe passata inosservata, questa cosa del Cristo, questa cosa della Madonna, sarebbe passata inosservata, perché era un'iniziativa, è andata su Dagospia, è andata da altre parti, eccetera, ma non avrebbe avuto la rilevanza che invece ha per l'intervento dell'Agenzia dei Vescovi, che dice che è una cosa di plastica, non va bene raffigurare. Questo lo trovo giusto. E allora? Non sono d'accordo sul fatto che proprio per chi sottovaluta la potenza mediatica, no? Lei visto che comunque sia ha un certo rispetto nella nazione di quello che dice. Vabbè, no? Allora? Mi sembra che casca un po' sul ridicolo dicendo che comunque sia è la massima espressione. Artisticamente può essere anche una cosa che fa bene. Ma è una cosa divertente, bellissima, le voglio comprare. Se fossero messe in commercio domani, ne comprerei una decina di queste robe qua. Dovrebbero fare anche Maometto, va bene, ma poi Maometto non cioè, c'è Cristo in croce, c'è il Buddha, c'è la Madonna. Qual è il problema? Cruciani, è fantastico, le compri anche lei che è cattolico, le compri anche lei. No, vabbè, io questo. È credente, compri anche lei, le metta in camera, le regali a sua figlia, regali a sua figlia, lei è una figlia. Certo, mi lasci parlare. Quanti anni ha? Io ho 14 anni. Però, insomma, beh, la Barbie un po' ormai è superata. Ho cercato di trasmetterle un po' di cosa vuol dire essere cristiani e la storia cristiana. Perché essere cristiani, comunque sia, è testimoniare. Vabbè. No? Non mi pare che sia una gran testimonianza, un oggetto di plastica, privo di ogni senso, e ridicolizza il senso profondo del cristianesimo. Poi, per carità, ognuno può avere il suo, io rispetto il suo punto di vista. Vabbè. Però, siccome questa è una cosa che viene detta su tutta la nazione, mi preoccupo da religioso. La condanna dei vescovi, la religione non è di plastica. Emanuele da Napoli, ciao. Emanuele? Non c'è Marco Pescara, vai. Pronto? Vai, Marco. Pronto? Sì. Pronto. Vai, Marco, forza! Sì, scusa. Scusa un cazzo, dai. Scusi, bravo, hai ragione. No, io volevo chiedere soltanto una cosa, più che altro un'informazione, perché non è che avrei tanto da dire, ma ieri sentivo il podcast con Razzi, il figlio, eccetera, l'ho visto molto in imbarazzo su quella questione del figlio, ma è omosessuale, si può sapere, si può chiedere, è legittimo? No, reato. Non è omosessuale, è il contrario, già l'ha detto una volta da noi, anzi segue le tracce del padre, ma poi lei che gliene frega se... manicure. No, ma lei che gliene frega se il figlio di Razzi è gay, scusi, Tendenzialmente nulla, però qualcuno potrebbe fregare. A chi? No, cioè il figlio? Sì, potrebbe essere tutto quello che riguarda Razzi, una notizia, la moglie, i figli e tutto. Mio figlio però, ha ripreso a me. Però le assicuro, l'ho sentito proprio agitato, capito? Però le assicuro che non è così. Le assicuro. No, glielo posso assicurare, conosco abbastanza bene la famiglia Razzi, mi picco di conoscere bene la famiglia Razzi per poterle rispondere, il figlio di Razzi non è tutt'altro, insomma, gli piace la gnocca, capito? Bene, buon per lui, ottimo. Va bene, ciao, Paolo, Napoli, Paolo. Ciao Giampaolo, volevo solamente dire che state bene a trasmettere queste interviste, queste espressioni, perché la realtà è questa ed è inutile indignarsi contro i giornalisti, contro voi che con grande cinismo, intelligenza e ironia riuscite a trasmettere effettivamente quello che è la situazione, fotografate una situazione. Quindi non mi indignate contro i giornalisti, indignate invece contro le altre persone che invece nel più totale menefreghismo continuano a lasciar correre le cose, a non impegnarsi. Ecco, mi sento di poterlo dire da napoletano. Bravo. Cioè, nel senso, in che senso? Che facciamo bene a mandare i pezzi in cui la gente dice ma non si possono indignare di nulla, perché la situazione è questa e te lo dice chi la città la vive nel quotidiano, chi la vive in ogni angolo, è questa, è davvero è quella, e noi ci dobbiamo assolutamente vergognare, perché se no, se chiudiamo gli occhi, se vogliamo ancora a dire sì, la sartoria, tutte queste, Napoli è bella, sì, è sicuramente bella, ma ci sono problemi, non chiudiamo gli occhi, affrontiamoli. E questo è uno sicuramente un momento di grande riflessione, non ci indigniamo, su, dai, insomma. Giovanni Perugia. Buonasera, ho sentito prima l'intervista a Civati, è fantastico, mi viene voglia veramente di chiedere l'abolizione del suffragio universale. Perché? Addirittura? Sì, sentendo Civati, sì. Perché? Perché? No, troppa ironia in un uomo solo, non ce l'ha fatta. Come dice, ha sopraffatto Cruciani, ero attonito. È sempre quel modo di fare, di parlare, di fare battute di un certo tipo di sinistra che ha ammazzato la sinistra. Cioè la sinistra che vuole perdere e basta, dice lei. Sì, cioè è una cosa, non si vuole che dici Renzi, allora tutto il male possibile di Renzi, d'accordo, lo vogliamo dire, diciamolo. Però voglio dire, il coraggio almeno di fare delle scelte impopolari, tutto quello che vuole, però il coraggio di farle. Sì, ma è importante che poi adesso non cali le braghe, perché poi ci sono i compromessi, gli accordicchi, il modo di accontentare, adesso leggo senza scendere nelle cose tecniche, per 3 anni e poi ritorno all'articolo 18 e tutte queste altre puttanate. Alla fine succederà questo, che ci sarà un accordicchio e una riforma che non serve a nulla. Vedrà che succederà questo, glielo dico io. Spero di no, sinceramente. One. Bersani ha appena detto, e da un certo punto di vista ha ragione, che Renzi sta governando con il suo 25% e non con il 40%. Cioè, bisognerebbe ricordare però che con quel 25% Bersani ha sostanzialmente perso. Cioè, ha vinto alla Camera col premio di maggioranza per pochissimi voti contro il centrodestra di Berlusconi, ma in realtà poi ha perso le elezioni perché non è riuscito a fare un governo. Dunque, rivendicare adesso il 25%, il 25%, che è, come dire, il voto preso dal Partito Democratico nel 2013, mi sembra anche un po' ridicolo. È vero che Renzi governa la Camera con i voti presi da Bersani, col premio di maggioranza preso da Bersani, lo stesso premio di maggioranza che Bersani stesso adesso dice di non volere. Ma insomma, dai, uno quando ha perso una battaglia come Bersani, a un certo punto dovrebbe anche arrendersi, secondo me. Dovrebbe anche posare le armi e far lavorare il segretario e il capo del governo. Così si fa. Parenzo se n'è andato a fare gli affari suoi per problemi, vabbè, lasciamo perdere, se no inizia una polemica infinita qui e non voglio mettere in campo cose personali, veramente, perché mi darebbe veramente fastidio, guarda. Si è alzato e se n'è andato, vabbè. Fabio da Ravenna, dai. Fabio da Ravenna, forza. Molto, Sario, io sono molto arrabbiato. Molto. Perché cosa? Dimmi. È una vergogna questa discussione sull'articolo 18. Perché è una vergogna? Dimmi. Io devo lavorare, devo scendere a dei compromessi che sono una cosa vergognosa. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire che faccio il doppio di lavoro che faccio, non sono in regola a metà delle ore. Prendere o lasciare, la maggior parte delle persone, io poi vivo il telefono dall'Emilia Romagna, nella mia regione è così, noi ci riuniamo con i comitati del 9 dicembre, i cosiddetti forconi. Ancora questi forconi, a Vichingo, no. E basta, dai, allora, su. Allora, intanto per cominciare a Formigine, chieda a Chienge, al suo capo. Ma qual è il problema? Non ho capito, qual è il problema? È stato accolto dal Movimento 9 dicembre a Formigine, glielo chiedo all'ex ministro Chienge, è una vergogna, ma vi rendete conto che l'articolo 18 serve solo ai soliti raccomandati delle pubbliche amministrazioni? Vi rendete conto che l'articolo 18 è una scusante per creare un po' di notizia, per creare un po' di... Ecco, finalmente, ecco qualcuno che dice qualcosa a favore dei lavoratori, ma a favore dei lavoratori... Ma che vuol dire a favore dei lavoratori? Non vuol dire nulla, sono parole vuote. Bisognerebbe abolire l'articolo 18 per tutti, bisognerebbe abolirlo, anche per quelli che ce l'hanno adesso, anche per me, anche per gli altri, tutti, va abolito per tutti, non solamente per i nuovi contratti, per tutti andrebbe abolito. Questa è la realtà, non hanno il coraggio di fare questo, perché se uno lo vuole fare, ovviamente ci può essere anche chi la pensa in maniera contraria, ma se uno lo vuole fare, lo deve fare per tutti, quelli garantiti e quelli non garantiti, altimenti si crea, cioè, leggevo oggi su Repubblica che ci sarà un periodo di passaggio in cui poi alla fine dell'articolo 18 non esisterà per nessuno, cioè le garanzie non esisteranno per nessuno, ma noi non abbiamo bisogno di periodi di passaggio, abbiamo bisogno di traumi, di rivoluzioni. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, il traffico no. Dammi, mi fanno un buchino. Mentre i vescovi italiani si preoccupano perché due giovani argentini creano delle bambole con Gesù Cristo, con la Madonna, Barbie Madonna e Ken Gesù Cristo in varie forme. Sì, andremo all'inferno, lo so, andremo all'inferno. Mentre i vescovi italiani si preoccupano e fanno comunicati protestando per la religione di plastica, è Ebbene, che succede? Che il Papa dà il via libera in Vaticano qualche minuto fa, l'annuncio dato al telegiornale della Sette. Il Papa autorizza l'arresto dell'ex nunzio Vesolovsky, un arcivescovo in Vaticano già condannato allo stato laicale. Indovinate per che cosa? Per pedofilia. Cioè, è stato arrestato in Vaticano un arcivescovo. Finirà l'inferno tra Stefania Nobile, figlia di Vanna Marchi, e David Parenzo, ieri in battaglia alla Zanzara. Mi siete tu e tua madre, non ho capito. No, mia mamma ci sarà ogni tanto, ma non è necessariamente presente. Ci sarò io, un ragazzo che mi affianca, che si chiama Marco. Ma che è Calata. Il Conte? Ma perché si dice Conte? Che è Conte sul serio? Ma che Conte? Ma perché non lo so, è il suo soprannome, il Conte. Poi, ho capito, ma uno non è che. Non si è attribuito questo nome in funzione della nobile che sono io, Io l'ho conosciuto che si chiamava già così. Sì, ma ho capito, uno non è che si può autoproclamare Conte, il Conte Salata. Ma lui non è che si è preso un titolo, ha preso un blasone e si è messo con le stesse palle in testa. Giuseppe, io ti adoro, ti voglio bene, però è stato zitto. Io vado a fare il mio canale, punto. Allora, lui si proclama libertario. Chi, Parenzo, dici? Parenzo. Lui chi? Ecco, che sì. Sono stato zitto. Però ha ragione, perché non può fare. Tutto, non mi deve rompere i coglioni, oppure mamma deve mia, prendere. Che ribollo io. Viene in onda davanti a me, parliamo, però davanti, siccome lui è nano, è più zitto, piccolo di me, di 25, già che sia zitto. Però scusami. Scusa, ma di dimmi cosa una parliamo? Cosa, tutti lo possono fare, ma tu basta che non guardi, cioè non è il problema, non ma capito. Fai tutte le televisioni che vuoi, fai tutte le televisioni che vuoi, tu appunto. Il Conte Salata che non è un conte, e fai il tuo ascolta, show davanti. Ma il Conte Salata ma è Marco, dai, è un mio amico, ma, se non ti piace non amico, lo guardare. Ma puoi fare la tele, ma non cos'è la televisione, la televisione? La televisione ma di cosa, è via tu web. Cosa dici tu, via web, via la rete, ma che roba è la televisione della Nobile? Dire, tu che cosa cos'è hai da dire, la televisione della Nobile? Dovresti soltanto stare zitta e tornare ascolta, nella spelonca dalla quale sei venuta dopo il male che hai fatto. Ma avete rotto i coglioni, basta! Ma cos'è? Ma c'è gente che ci governa tutti i giorni, che ha delle condanne sulla testa, e allora ve la prendete con l'unica persona in Italia che ha pagato tutte le sue colpe, basta! Che cazzo vuole? Non gli piace Stefania Nobile, di che cambi canale! Emanuele da Udine, buonasera Emanuele, ricordo che Parenzo è andato via eccetera eccetera all'improvviso, non ne parliamo, anzi se volete parlatene anche voi, ma io non ho voglia di parlarne, sono già abbastanza depresso di mio, vai Emanuele, vai. Buonasera Cruciani, salve, buonasera. Io volevo fare una riflessione sul ragazzo prima. Una riflessione, vabbè. Allora, un mio pensiero, va bene. Sì, va bene Emanuele, vai, forza. Allora, guardi, questo ragazzo bigotto che ha chiamato prima, a me sta gente qua mi sta sui coglioni, perché sostanzialmente sembrano un po' i preti che predicano la castità. Non capisco niente, Gaetano, provincia di Napoli. Ci sono. Vai, Gaetano. Ti volevo dire una cosa, no, Cruciani. Richiamatelo, Emanuele, vai, Gaetano. Sì, mi senti? Sì, ti sento, vai. Dimmi una cosa, se la mediazione non la faceva Ciro o a Carogna, no? Chi la faceva? Ma non bisogna fare nessuna mediazione lì. Ma quando... come no, scusa, ma, in ma quale mediazione? Ma è una malattia quella roba lì. Comunque io. Indubbiamente che è una malattia. E allora, appunto, però nel dai. Momento in cui c'era la malattia, che dovevi fare? Fammi capire. Senti, amico mio, probabilmente in quel momento lì, in quel momento, probabilmente, ma certo, probabilmente in quel momento lì bisognava utilizzare, utilizzare Jenny Agarogna per mantenere la situazione. Utilizzare, momento non è utilizzare, era un interagire tra Jenny e la Carogna con una massa di quelle che avevano alle spalle e la penna delle forze di polizia e gli altri, e gli altri della Fiorentina, certo, certo. È quello che sarà. Allora Jenny e la Carogna non è, facciamo l'eroe, non facciamolo questo, però Jenny e la Carogna ha dimostrato che cosa ha dimostrato? Ha dimostrato di portare la calma, la pace. Ma quale calma, che ha fatto l'inferno fuori dallo stadio secondo quello che scrivono i magistrati, dai. Lo stadio, non stiamo parlando di quella cosa, ma poi tu lo sai, Cruciani, che si pensa che speciale non speciale Racita è morto di fuoco amico. Sì, di fuoco amico, sì, queste sono le teorie strane. Lasciamo le teorie strane, però dai, su, al fatto di Jenny, lasciamo le teorie strane, va bene, però il fatto che ha fatto Jenny, no, secondo me è diventato famoso perché si chiama Jenny la Carogna, perché se si ma chiamava lei lo conosce il curriculum criminoso di Jenny Agarogna? Allora io guarda qui, io vivo a lei Napoli, lo conosce o no? Lo conosce, cioè non è un diplomatico, non è un mediatore internazionale, cioè non è il segretario generale dell'ONU. Nessuno, indubbiamente non è, naturalmente, ha capito, non, sì, non è un uomo di corte, non è un, tranquillamente non può fare sicuramente la, ecco, domanda alle ferrovie dello Stato, alle poste. Ma no, ma non è questo, ci sono tanti criminali, anche ci sono anche tanti criminali con i colletti bianchi, che vuol dire? Non ci sono problemi, però nel momento in cui stiamo parlando di quella situazione lì, Cruciano, tu sei un buono figlio di puttana, non sei uno scemo. E allora? Allora, in quella situazione qui, la figura di Gennaro, che se invece per si chiama la Carogna, si chiamava Gennaro Culiligno, non diventava così famoso. Com'è Culiligno? Culiligno, Gennaro Culiligno. Gennaro la Carogna, cioè, scusami, siccome io sono calabrese che vi parlo. No, va bene, va benissimo. Ogni perché tanto mi scosto questa cosa qui, però la funzione di Gennaro, di Jenny, sì, di questo ragazzo, è stato quel giorno di pacificatore, in quell'attimo parlo, dopo degli scontri fuori non sono tenuto, non li conosco e non sono tenuto a parlare, però da quelle cose lì, no, di quello che ho visto io in televisione con la maglia, ma poi la maglia è una caedda, è una forma di stupidità che tu lo condanni per la maglia. Ma non è per la maglia, perché guidava un gruppo di delinquenti fuori dentro lo stadio, poi secondo me l'hanno arrestato 5 mesi dopo 6 mesi dopo, ed è una follia totale. Ma non è che l'hanno arrestato, chiaro, per la maglietta. La maglietta è una delle cose che scrive, chiaro. Hai detto il contrario, Come? Hai detto il contrario, l'hai presentato come un mediatore internazionale, no, che mette a posto la situazione. Perlomeno sono di una cultura galera americana, però secondo me nasce tutto dopo la morte di quell'altro. Dal suo soprannome, dici tu, per siccome si chiama alla Carogna. Questo chiaro. Il fatto che secondo me è nato tutto dopo che la polizia, vabbè, la legge ha ammazzato a quel ragazzo, si sono scatenate. A chi dovevano prendere, che fa cosa nazionale, a Jenny la Carogna. Ciao caro, ciao caro. Ciao. Un gatto che ormai è tutto finito. Petita Juvent, mentre i vescovi si incazzano perché due giovani argentini creano la Madonna e Cristo come Barbie e Ken, cosa succede in Vaticano? Apriremo il giornale questa sera con una notizia che abbiamo verificato per tutto il pomeriggio e che vi diamo in esclusiva, una notizia importante. È stato arrestato questo pomeriggio in Vaticano con l'accusa di pedofilia, ed è un arresto che non ha precedenti, un arcivescovo polacco, Weserowski. Vi daremo i particolari di questa notizia, che non era ancora conosciuta alle agenzie italiane e di tutto il mondo. Cose incredibili sentite ieri in televisione. Una europarlamentare del Partito Democratico che si chiama Moretti, presenza del 58%, cioè poco più della metà, come votazioni al Parlamento Europeo, 58%. Alessandra Moretti, dice che non voterebbe un indagato in Italia, cioè non voterebbe, cioè Donato Bruno come giudice della Corte Costituzionale proposto da Forza Italia insieme a Violante. Oggi altra votazione è andata a vuoto. Signora Moretti, io non voterei un indagato. Ah, ecco, questa è la notizia, cioè lei non lo voterebbe? Ma molti dei miei colleghi, probabilmente questo sarà oggetto della riflessione che domani si aprirà, ma glielo dico stasera perché da quello che ho capito, ma no, da quello che ho capito, scusate, voi ci state dando una notizia voi, che Bruno è indagato, cosa che fino a qualche ora fa nessuno diceva. Ma chi se ne fotte che è indagato? Chi se ne fotte che è indagato? Se non lo votate, non lo votate per altri motivi, perché amico di Previti e altre cose, perché non volete Violante. Poi scusate, voglio rivolgermi direttamente alla signora Moretti, ma non ci avete nel governo di Renzi indagati, credo anche un rinviato a giudizio per altre cose ovviamente, la, come si chiama, quella sarda, un altro sottosegretario viceministro Lucano, è pieno, ce ne sono due o tre al governo e non va bene Donato Bruno, forse indagato? Dai su. Ragione invece Velardi quando dice, cosa che noi abbiamo sottolineato qualche giorno fa, che la Corte Costituzionale è lo specchio dell'Italia peggiore. Questo è il punto, riformare la Corte Costituzionale con stipendi assurdi fino a 500.000, pensioni incredibili che sono folli per gli italiani, per lo stato in cui sono gli italiani adesso. Eppure si parla di Bruno, Violante, ma chi se ne frega? Velardi. Tu sai meglio di me come si eleggono il presidente, i giudici della Corte Costituzionale. Prendono il più anziano, il più vicino alla però pensione. Però sono stati anche gli unici che l'hanno scritto quando io l'ho denunciato. Di modo che pochi mesi dopo, quando hai pensione, possa prendere il massimo. La Corte Istituzionale è un perfetto specchio dell'Italia peggiore. Allora. Emanuele da Udine, Emanuele. Sì, salve Cruciani, mi sente adesso? Sì, dimmi. Bene, allora salve. Allora io prima sentivo il vostro telespettatore, un filino bigotto, insomma, no? Mi sembrava su quell'onda lì. Il signore che parlava prima dei Ken, delle Barbie di plastica, delle Madonne di plastica, dei Cristi di plastica, giusto? Sì. Allora io non capisco una cosa, mi scusi, mi sembra un po' di sentire il prete che predica la castità e si scoppa la perpetua. Cazzo, vedono le Madonnine di Lourdes di plastica con l'acquolina di Lourdes dentro, vanno a fare Padre Pio, quando l'hanno riesumata aveva la maschera sul viso, logicamente in decomposizione, gli hanno messo una bella mascherina di silicone sopra. Ma di che cazzo stiamo parlando? Però lo decidono loro, Sì, ho capito, ma perché i soldi non vanno a loro, allora, caro? No, Cruciani. Anche loro creano iconografia, anche loro, ma creano, certo, modelli, caro. Anche loro creano bambole, se vogliamo. No, adesso lo fanno due argentini in maniera intelligente, non è per niente offensiva. Cioè, certo, con Gesù Cristo, c'è anche Cristo un po' scosciato, per carità. Però, ragazzi, ma quando i simboli ancora sono presenti nella nostra società, sono trasformati anche in manifesti, sono trasformati anche in opere d'arte, è normale che sia così. Di che cosa hanno da lamentarsi? Sì, vescovi italiani. Lo sapete la notizia che mi ha colpito di più oggi? In realtà è una notizia di ieri, credo. Viene dagli Stati Uniti, dove una signorina, che pare faccia la massaggiatrice, ha speso $20,000, pure pochi secondo me, per farsi impiantare il terzo seno. Jasmine Trideville, 21enne americana. Allora, due i motivi, due, sentite. Terzo seno, cioè c'ha due tette, se ne mette un'altra in mezzo con un finto capezzolo. Primo motivo, riuscì ad essere scelta per un reality televisivo, forse l'unico motivo. E poi allontanare gli uomini. Questa cosa, volevo smettere di essere attraente per gli uomini, non voglio più appuntamenti. La maggior parte degli uomini penserà che sia strano e disgustoso. No, forse penserà che c'è bisogno di un'ambulanza, più che altro. Ma io ancora mi sento bella. Vabbè, questa è chiaramente una scusa ridicola. Se uno vuole evitare di essere attraente, non è che si fa mettere, no, non è che mi faccio mettere il secondo pisello, no. Allora, prima ha dovuto contattare 50 o 60 medici, poi qualcuno ha accettato per $20,000 di farle questa operazione. Dai su, ragazzi, come si fa? Allora, ho invitato un signore che ha scritto un libro che si chiama Demiurgo Plastico, in cui critica anche la chirurgia estetica, tra l'altro. Un signore abbastanza famoso nel suo mestiere che si chiama Giulio Basoccu. Buonasera, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Io benissimo. Allora, ma lei avrebbe operato una persona per metterle un terzo seno, oppure secondo lei è una baggianata pazzesca? Perché le foto ci sono, lei le ha viste. Pure lei io penso e spero che non ci sia un chirurgo plastico così idiota da fare una cosa del genere, perché questo mi fa rabbrividire. Quindi la risposta è che no, non l'avrei mai fatto, e avrei, come dire, lo trovo veramente fuori del mondo, ma forse non è neanche vero. Penso che forse no, non sia neanche vero. Le foto si vedono, poi le foto si possono ritoccare e tutto. Sì. La notizia pare che sia confermata. Ma sai, gli Stati Uniti sono un paese dove queste cose possono accadere. Cioè, una che ha due tette così se ne mette un'altra in mezzo e diventano tre. Ma uno non può crepare per una cosa del genere, secondo lei? Oppure sul corpo si può mettere di tutto, in realtà? Cioè, perché diciamo uno... che crepare non si crepa, no, morire non si muore. Però diciamo che, come dire, si muore di ridicolo, quello sì. No, ma quello sì, ma anche uno sta male, cioè, no? Già se uno ha due seni prosperosi, due tette enormi, è già complicato. Se ti metti tre robe così, cioè, diventa una roba impossibile, cioè, a 21 anni, ma io non so, veramente. Ma anche tecnicamente devo dire che mi sfugge il meccanismo attraverso il quale è stato fatto, perché immagino che questa ragazza avesse, come tutti gli esseri umani, due areole e due capezzoli, e non so dove abbiano messo il terzo. Io la foto non l'ho vista, ho letto l'articolo, ma poi pensavo fosse una butade. Invece... Senta, dottore, ma le notizie più strane le richieste più strane che le sono arrivate, quali sono? Cioè, ci sarà qualcuno che si è presentato a lei? Quanti interventi estetici fa al giorno? Cioè, al giorno, all'anno? Beh, diciamo che ne faccio qualche centinaio l'anno, e sì, di richieste strane ne ho per tantissime. Esempio? Ma dunque, diciamo che se vogliamo farci due risate, da qualche anno... una delle richieste che si possono, come dire, definire ridicole sicuramente è quella per esempio del ringiovanimento dei genitali. C'è tante pazienti che comunque mi dicono sia un fake, è un fake, sì, assoluto, questa qua del terzo seno, è un totale fake. Un totale fake. Visto che era... Ma sì, dai, è un fake. Comunque è un fake, era chiaro che... si è trasformato in una sorta di tormentone, ma un fake, era impossibile. Dai, anche allora, questa ragazza è stata molto in gamba a costruire tutto questo meccanismo. Sì, chiaro. Stiamo parlando fino a qui, quindi è stata allora veramente svelta, sicuramente. Ma allora, al di là di questo, le notizie più strane quali sono? Cioè, le richieste diciamo più strane? Che c'è delle richieste da un po' di tempo, per esempio di ringiovanimento degli organi genitali. Che come ringiovanimento degli organi genitali? Cioè, maschili e femminili? No, femminili. Soprattutto femminili. Soprattutto perché maschili femminili... è difficile ringiovanire l'organo genitale maschile. Sì, è veramente difficile. No, soprattutto femminili e... Cioè, come funziona il ringiovanimento degli organi genitali femminili, scusi? Ma ci sono alcune donne convinte che gli organi genitali si possano, si rilassino, acquistino anche delle colorazioni particolari, e questo è vero per le mucose, quindi chiedono per esempio di schiarire le mucose. Questo succede... Cioè, schiarire le mucose del sedere, Del sedere, come anche degli organi genitali, sì. Cioè, schiarire in modo che si schiarisce il sedere e la figa, non ho capito. L'idea è quella che segue un po' la moda della depilazione totale, quella che le mucose, quindi le mucose anali e vaginali di un adolescente siano molto chiare, molto rosee, e quindi per somigliare il più possibile a un adolescente si fanno schiarire le mucose. Addirittura. Sembra incredibile, ma è così. Sì, sì. E lei le fa queste cose? No, io non le faccio, però è una cosa che è una richiesta che si fa, una richiesta, per esempio in alcuni paesi, come i paesi arabi, addirittura è un intervento frequente, non una un fenomeno. Ma io sapevo che si interveniva per ridiventare vergini. Sì, questo ma lei quello lo fa? No, io questo non lo faccio, ci sono dei chirurghi che si occupano precisamente di questo, diciamo che anche nella nostra specialità ci sono delle iperspecializzazioni, quindi ci sono chirurghi che si occupano soprattutto della chirurgia dei genitali, e ripeto, nel nostro paese è un fenomeno abbastanza raro e che fa ancora sorridere. Ci sono paesi come i paesi arabi dove questo... Per cui la richiesta più strana in Italia che l'hai ricevuto qual è stata? Cioè, non so, uno che si voleva rifare, il sedere è normale, ormai sembra. Sì, sì, ma diciamo che ecco, fa sorridere a volte qualche paziente, lo fanno, mi è capitato a volte di dirlo da uomini, pazienti che entrano e ti chiedono, dici, guardi, io non so cosa voglio fare, voglio diventare bello. E a me questa cosa, per esempio, mi faceva tanto sorridere perché, come dire, vuol dire avere una percezione di se stessi totalmente alterata senza neanche capire per quale motivo, ecco, avere... Ma interventi al pene ci sono o no? Vengono richiesti o no? Sì, gli interventi al pene sono richiesti, sono... Ma di che tipo? Beh, gli ingrandimenti ovviamente. Ma quello lo fa un chirurgo estetico? No, diciamo che lo fanno gli urologi, lo fanno anche alcuni chirurghi plastici. Lei no, manco questo. Lei fa, no, cose, lei fa cose normali, ma i politici si avvicinano a lei o no? Ha richieste di politici? Sì, sì, a volte. Sì, non di questo genere, ma i politici fanno tanta chirurgia estetica. Sì? Sì, sì, sì, fanno tanta chirurgia estetica. Beh, poi del resto io osservavo... Ma più di destra o di sinistra? Ma secondo me più di destra, è vero che lo fanno più quelli di destra, ma per un meccanismo molto semplice. Io credo che Berlusconi abbia, come dire, si sia inventato un marketing nella politica per cui i bei visi delle belle ragazze giovani... Vabbè, ma questo però è anche un luogo comune ormai, dai, non è che... Ma non è tanto un luogo comune, perché adesso mi pare che anche a sinistra ci sono un sacco di... Appunto, dico. Candidate, ecco, ma è successivo probabilmente a una fase storica, perché io non mi ricordo, 10 anni fa la Bindi non me la ricordo così dedita come? Così dedica l'attività di cura del perché lei l'ha vista pensa che adesso sia più curata, più... No, però penso che ci sia un'attenzione maggiore in questo momento storico a rappresentare la politica italiana come la politica dei volti giovani, belli e efficaci e efficienti. Va bene, grazie, buona serata, grazie. Ciao, a ciao, voi, ciao. A presto. Sì, Parenzo assente, se n'è andato a un certo punto alle 8, diciamo. Stendiamo un velo pietoso. Chiara da Padova, Chiara. Ciao Cruciani. Velo pietoso, stendiamo, vai. Niente, ho sentito qui dell'americana con questo tempo. No, ma è un fake, è un fake. Sì, no, ma era nel nostro gruppo dei riccardiani, che tu abbia preso spunto ma da no, lì. No, ma che c'entra il gruppo dei riccardiani, che adoro, non è che adesso ogni giorno... Vabbè, ma allora Chiara, noi siamo più così io volevo parlare di noi riccardiani. Ma che volevi dire? Non ho capito, che volevi dire? Siamo matti di quelli che ti chiamano in trasmissione. Ma domani ci sarà una sorpresa. Vai, Luca da Vicenza, Luca. E vai. Luca. Buonasera Cruciani. Vai, dimmi. Ecco, vorrei dire una cosa a quei geni Cruciani che ce l'hanno con la natura, quindi con l'omosessualità e il fatto che l'omosessuale è contro natura. Io le premetto che sono assolutamente eterosessuale, mi piacciono le donne, ma questi devono capire che è la natura che prevede, programma, considera, calcola di come vogliamo che una determinata parte abbia questa tendenza sessuale. Cioè è l'esatto contrario, cioè questa è proprio la natura, cioè è la natura che prevede che una determinata parte abbia questa tendenza sessuale. Le ripeto, io sono assolutamente... Cioè, io lo spieghi a quelli che... E poi un'altra cosa cruciale, la natura, come ci ha insegnato il buon Darwin, cambia, cioè la natura non è statica, cambia. E qui devono mettersi in testa sta roba, e le ripeto, io sono assolutamente eterosessuale e mi piacciono le donne e anche tanto. Cruciani, cioè lei dice che quelli che invocano la natura eccetera dovrebbero in realtà considerare che la natura prevede anche queste cose. Certo, è troppo. Va bene, grazie. Bruno Catania. Sì, Peppe, ciao. Ciao, dimmi. Una cosa semplice, sono d'accordo per te per eliminare l'articolo 18. Ma io lo vorrei eliminare l'articolo 18 e non ne posso più di citarlo perché la gente non gliene frega nulla l'articolo 18. Io sono convinto che se uno chiedesse ai singoli deputati che cos'è l'articolo 18, molti non nemmeno sanno in che cosa consiste. Comunque, no, Bruno, bisogna eliminarlo per tutti, quelli che ce l'hanno adesso, quelli che ce l'avranno, altrimenti si perpetuano le ingiustizie. Poi dicono che verrà introdotto gradualmente e gradualmente scomparirà. Ma non abbiamo bisogno di gradualità in Italia, avremo bisogno di una rivoluzione subito, adesso, scontentare qualcuno, portare gente in piazza, viva lo scontro sociale. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani, dobbiamo chiudere, ciao. Ma ve ne dovete annare? Ma perché? Ma se ve dica annate, ve ne annate. Ma perché se ne devo annare? E bisogna ve ne annate! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sto, dammi, mi fanno un buchino. Radio 24. La passione si sente.